24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano la situazione in Grecia dopo il via libera del Parlamento ellenico al nuovo piano di austerità. L'Europa applaude ma chiede ulteriori garanzie. Occhi puntati anche sul Portogallo in vista dell'Eurogruppo di domani. Intanto Francia e Germania sono sotto il fuoco delle critiche per le pressioni su Atene affinché acquistasse armamenti militari. Oggi parleremo anche di disuguaglianze sociali in Europa e vi porteremo nella Guyana francese per il lancio di un razzo europeo. Apriamo allora con le ultime notizie dalla Grecia, dove dopo l'ok al piano di austerità sono state confermate le elezioni anticipate ad aprile, centinaia di feriti negli scontri di domenica. Sentiamo. Voto anticipato ad Atene, forse addirittura l'8 di aprile prossimo, in una corsa contro il tempo per ottenere i fondi europei entro il 20 marzo, data ultima entro cui scadranno 14 miliardi di bond ellenici. Le rovine del cinema Apollo sono ancora fumanti, una vecchia istituzione culturale della capitale. È stata data ieri notte alle fiamme con la sede della banca Marfin e il negozio Starbucks, simboli di banche multinazionali. Una calma apparente regna oggi in centro ad Atene, dove ci sono i resti appunto degli scontri tra polizia e incappucciati, i famosi Black Bloc, che hanno scatenato nella notte la rabbia contro il presunto complotto internazionale contro Atene. Intanto i greci guardano alle misure di austerity che sono state approvate, che prevedono 15.000 licenziamenti nel settore pubblico entro il 2012 e 150.000 nuovi licenziamenti entro il 2015, in una riduzione dei salari minimi da 750 euro a 600, riduzione della spesa sanitaria e degli investimenti. Ma l'Europa sembra ancora non credere che Atene rispetti i patti appena firmati e quindi il braccio di ferro continuerà. Vittorio Darolle, Radio 24, il Sole 24 Ore, Atene. L'Europa reagisce positivamente, anche se con cautela, all'evoluzione della crisi in Grecia. Per la cancelliera tedesca Angela Merkel, l'approvazione delle misure di risparmio da parte del Parlamento ellenico dimostra la buona volontà della Grecia nell'intraprendere difficili riforme. Per il commissario europeo agli affari economici Olli Rehn, il voto parlamentare dimostra la determinazione che prevale in Grecia, un paese che intende mettere fine ad anni di squilibri economici. Ma, ha aggiunto Rehn, il voto è solo una delle condizioni che l'Eurogruppo ha posto alla Grecia prima di sbloccare gli aiuti. Proprio domani riprenderà la partita anche sulla crisi portoghese. A Lisbona arriveranno i tecnici della Troica, i rappresentanti di Europa, BCE ed FMI. Da settimane si ipotizza che anche Lisbona possa avere bisogno di nuovi aiuti. Intanto il governo ungherese ha proposto al Parlamento l'adesione del paese al patto di bilancio europeo, lo ha annunciato il portavoce del Premier Orban. Sul fronte borse i mercati europei hanno iniziato le contrattazioni a rialzo per poi sgonfiare i guadagni sul finale. Milano ha chiuso col FTSE MIBA più 0,05%. Sentiamo. I listini europei hanno limitato sul finale i guadagni della giornata, con gli operatori ancora incerti sulla situazione greca. Milano ha chiuso praticamente invariata, col FTSE MIBA più 0,05% e il FTSE OSHARA più 0,19%. Il settore bancario si è mosso in ordine sparso. Sebiper ha guadagnato il 2,8%, BPM ha ceduto il 4,8% dopo la notizia che i vecchi vertici della banca sono indagati per truffa a causa di un prodotto, il prestito convertendo, che ha generato perdite fino al 90% per i sottoscrittori. Male anche Unicredit, meno 3,8%, che paga l'annuncio di nuove svalutazioni per la Grecia da parte della controllata Bank Austria. A correre, invece, è stata ancora una volta Fonsai, che ha chiuso la giornata più 18,3%. La compagnia assicurativa continua a beneficiare di acquisti speculativi dopo l'ingresso della finanziaria veneta Palladio nel capitale con una quota del 2,25%. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, il Sole 24 Ore. Fanno discutere intanto le presunte pressioni di Germania e Francia per vendere armi, sottomarini, carri armati, fregate ed elicotteri al governo di Atene in cambio degli aiuti europei. Pressioni denunciate nei giorni scorsi dalla stampa tedesca, che ha definito cinico e immorale il comportamento della cancelliera Merkel. Un quadro verosimile, commenta a Radio 24 il generale Leonardo Tricarico, ex capo di stato maggiore dell'aeronautica. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. È verosimile, diciamo, questo scenario, questo mondo del procurement militare. Oggi più di ieri, direi, stanno prevalendo valutazioni di carattere politico più che la bontà del prodotto vero e proprio. Ecco, questo è un discorso sicuramente da seguire con grande attenzione, soprattutto per chi poi rappresenta l'interesse nazionale, in questo caso parlo dell'Italia. Bisogna che l'interesse nazionale a sostegno della nostra industria venga fatto valere, non per ricattare qualcuno o strangolarlo in un momento del bisogno, come probabilmente sta succedendo per la Grecia, ma perché le nostre ragioni vengano fatte valere. La spesa bellica della Grecia raggiungerà nel 2012 i 7 miliardi di euro, quasi il 20% in più rispetto al 2011, il 3% del PIL, che è una percentuale altissima per un paese come la Grecia. Oltre il triplo dell'Italia, direi, perché noi siamo persistentemente al di sotto dell'1%, quindi qui parliamo del 3%, effettivamente è abnorme. C'è da dire che sullo sfondo della politica greca c'è sempre questa questione della litigiosità con la Turchia, che al momento direi ormai è da accantonare, le sfide sono altre. Dobbiamo fare la nostra parte e la stiamo facendo, così il presidente della Repubblica Napolitano ha risposto ai giornalisti al termine del colloquio al Quirinale con il presidente tedesco Wolf a proposito della crisi in Europa. Nell'Europa 15 sono i paesi meridionali, insieme al Regno Unito, quelli dove è più forte la disuguaglianza. Nell'Europa 15 sono i paesi meridionali, insieme al Regno Unito, quelli dove risulta più forte la disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Lo attesta l'Istat nel rapporto sulla coesione sociale 2011. In base al rapporto, tra la quota di reddito del 20% più ricco e quella del 20% più povero della popolazione, nel 2010 Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Regno Unito sono i paesi caratterizzati dal maggiore grado di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi. Il nuovo razzo spaziale europeo Vega è decollato ieri mattina dal centro spaziale di Kourou nella Guyana francese. Sentiamo Gigi Donelli. È stato davvero un grande successo, un successo che è stato vissuto, tra l'altro, visto che parlavamo di maltempo, anche nel Lazio, dove è stato costruito a Colleferro una vera e propria cittadina in piazza nella neve, ma di fronte a un maxi schermo per vedere Vega lanciato da Kourou, dalla base appunto europea in Sud America, compiere un percorso perfetto. In 90 minuti ha posto in orbita ben 9 satelliti, 2 satelliti italiani, 7 cosiddetti CubeSat dei laboratori europei. Soprattutto ha dimostrato di essere efficiente ed è entrato così a far parte della famiglia dei razzi europei, attualmente composte da Ariane 5, da Soyuz e appunto da Vega, un lanciatore europeo costruito in gran parte in Italia, anche una prospettiva importante per il lavoro ad alto contenuto tecnologico nel nostro paese. Proteste in varie parti d'Europa contro il provvedimento ACTA, sentiamo di cosa si tratta. Sfidando le temperature sotto zero di questi giorni, migliaia di persone, soprattutto giovani, sono scese in piazza sabato per protestare in quasi tutta Europa, anche se in Italia in pochi se ne sono accorti. Certo, di questi tempi ogni occasione è buona per organizzare una manifestazione di piazza. In questo caso l'obiettivo è mandare all'aria una firma che l'Unione Europea ha messo su un trattato internazionale chiamato ACTA, che punta ad intensificare le azioni per la tutela della proprietà intellettuale anche su internet. Dell'ACTA si parla almeno dal 2007, ma le trattative, sempre molto riservate e portate avanti fuori dai parlamenti, hanno sempre destato molti sospetti e oggi molti giovani, la cui vita è in buona parte su internet, temono che in nome della difesa del diritto d'autore l'ACTA minacci la libertà sul web. Le manifestazioni più massicce si sono tenute in Germania, 16.000 persone a Monaco, almeno 10.000 a Berlino, ma anche ad Amburgo, Dortmund, Francoforte. Non è un caso che la Germania abbia deciso per il momento di sospendere la firma del trattato. Stessa cosa hanno fatto Polonia e Repubblica Ceca, anche qui migliaia sono scesi in piazza. Finora 22 paesi dell'Unione hanno firmato, Italia compresa, ma visto che il tutto dovrà essere recepito dal Parlamento europeo entro giugno, i dubbi di Berlino potrebbero avere un peso. I giovani scesi in piazza in questo fine settimana si confondono con i militanti di Anonymous, protagonisti di molti attacchi sulla rete, e con il partito pirata che siede in molti parlamenti del nord Europa, Germania compresa, ma pure il Politically Correct Economist ritiene troppo pesante il trattato. Finora le proteste del popolo della rete contro il Congresso degli Stati Uniti per materie molto simili hanno avuto successo. Vedremo da qui a giugno cosa succederà in Europa. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie per l'assistenza in regia a Fabio Cantadori. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.